some violent content. Parental discretion is advised. You're nothing but an animal. Sulla superficie succedono disastri. Il mio ego mi fa generare dei remoti se mi capitano contrasti. Se la terra si muove sulla superficie succedono disastri. Il mio ego mi fa generare dei remoti se mi capitano contrasti. Quello che conta nella vita sono le amicizie e gli affetti. Mon ego così smisurato che me ne dimentico. Il risultato è che devono tollerarmi. E questo è uno dei miei più grandi difetti. Starete pensando va bene però l'ammetti. Ma io mi trovo a mio agio tra i maledetti. Cerco di darmi una regolata ma quest'auto è risultata scalurata. Già dalla bio data la condizione attuale. Posso affermare di essere uno stronzo a tutti gli effetti. Scommetti che peggiori in giro non ce ne sono. Anche perché ho la faccia da bravo ragazzo ma sono un pazzo e no perdono. Da manicomio è come Antonio. So che la morte è una livella mannella. Mia vita non è legislatura neppure quella. Ho perso la misura da quando portavo la cartella. Paura è il nome, nel rap faccio impressione. In effetti è adatta ad uno che vuole l'attenzione. Sempre su se stesse per adesso. O vi va bene questo oppure potete andare. Sapete dove? Se la terra si muove sulla superficie succedono disastri. Il mio ego mi fa generare dei remoti se mi capitano contrasti. Se la terra si muove sulla superficie succedono disastri. Il mio ego accelerare terremoti se mi capitano contrasti. Ho carattere assurdo e le volte sono intrattabile. Il mio buonsenso si nasconde in un territorio impraticabile. Finora ogni mio scazzo è risultato irreparabile. Sono psicolabile e a ragion del vero ogni mio sclero è memorabile. Colore preferito il nero, ore war. Mi può trovare a distigare risse nei peggiori bar. Come il papero, self control zero. E se non sto attento sbavo, verrò a portarti un cero al cimitero. Se non fai il bravo, non ho riguardo per nessuno. Io sono il bastardo numero uno. Non ho garbo, salvo per chi non metto spalle al muro. Se il gioco si fa duro, presente di sicuro. Ti sotterro, lascia di guerra, la gente si accascia a terra. Se la terra si muove sulla superficie succedono disastri. Il mio ego mi fa generare delle voti se mi capitano contrasti. Se la terra si muove sulla superficie succedono disastri. Il mio ego mi fa avere reazioni spropositate se penso che mi stanno contraddicendo. Rendo con gli interessi qui tira vento. Bufera, tendo a comportarmi da pazzo di galera. Sento che posso atterrarne fino a 100. Quando incrocia il mio lo pretendo. Potrebbe essere un addio. Se vi chiedete cos'è l'ira di Dio posso rispondervi soltanto io. Portando intanto qualche buon esempio pratico. Perciò cambiate argomento. Dipende dal temperamento. Se un fraintendimento può generare in un solo momento un accadimento tremendo. Fendo l'aria con un colpo. Statemi lontano se no vi prendo a morsi in testa come il polpo. Molto dipende dagli umori, dai miei conduttori. E so che sono in tanti quelli che sostengono che io sto fuori. Guerrieri, meglio essere miei alleati, siete avvisati. Guerrieri, comportatevi da sclerati, andate nei fieri. Guerrieri, pensate prima al cash e poi al resto. Fuori è buio pesto, da ieri siete braccati. Guerrieri, non sono bastati soldati che sono stati arruolati. Per abbattere un gigante non serve l'artiglieria pesante. Quante volte ve lo devo dire? Se la difesa del nemico è solida dovete usare il sottoscritto al posto dell'atomica. È un'esagerazione come le argomentazioni trattate in questo pezzo per il 90% cazzate. Non dite che mi prendevate sul serio. So che c'è gente che dice cose peggiori nei testi rap. Beh, io posso solo paraculandoli al massimo proprio. Se la terra si muove sulla superficie succedono disastri. Il mio ego mi fa generare delle voti se mi capitano contrasti. Se la terra si muove sulla superficie succedono disastri. Il mio ego mi fa accelerare terremoti se mi capitano contrasti.